idolatrato da milioni di persone, deve il suo successo al fatto che in ogni atto, in ogni parola del personaggio cui dà vita davanti alle telecamere, traspare una mediocrità assoluta unita ad un fascino immediato e spontaneo, spiegabile col fatto che in lui non si avverte nessuna costruzione o finzione scenica. Sembra quasi che egli si venda per quello che è, e quello che è sia tale da non porre in stato di inferiorità nessuno spettatore, neppure il più sprovveduto. Ora, fossero state scritte queste parole l'altro ieri, e se dovessimo indovinare a chi si riferiscono, ci troveremmo in imbarazzo. Se ne condividessi il metodo di indagine di cui questi giudizi sono il risultato, li riterrei adattissimi alla maggior parte delle persone che appaiono attualmente in televisione. Giusto l'altra sera mi è capitato di incappare in un tizio che ringraziava Urbi e Torbi perché lui, grazie alla televisione, era diventato il personaggio più popolare d'Italia. Beh, giuro, non l'avevo né mai visto né mai sentito nominare in vita mia. E questo mi ha spinto ad un esame di coscienza, altrui ovviamente, va bene. Ma quei giudizi, ecco, se questi giudizi non sono stati formulati ieri o l'altro ieri, ma se sono stati formulati nel 1961, allorché era piuttosto facile individuare la persona cui si potevano adattare. Recentemente Aldo Grasso ci ha dato una strana lezione di ermeneutica. Ci ha spiegato, cosa che non saremmo mai riusciti a capire da noi, che le cose cambiano in continuazione, che cambiano gli spettatori, cambiano i presentatori, cambiano i punti di vista, cambiano i contesti, cambiano col tempo, attenzione, anche i testi analizzati. Il che sarebbe come dire che non devo fidarmi dell'analisi dell'urina del lunedì mattina perché l'urina del mercoledì sarà diversa. Il che sarebbe come dire di analisi non facciamone più. Il che rappresenta la punta ideologicamente più avanzata del pragmatismo berlusconiano. Questa strana e inconsulta lezione Grasso ce la somministrava per festeggiare l'80° compleanno di quel signore del buon senso che a suo dire è mai buongiorno. Il mai buongiorno di oggi, secondo il Vangelo di Grasso, dunque, attenzione, sfoggia cultura. Quella cultura popolare che lo ha reso famoso e che gli ha permesso di svolgere un ruolo non indifferente nel lungo processo di costruzione dell'identità italiana. Da genio qual è, questo buongiorno avrebbe sempre saputo scegliere il punto di vista del semplice, semplice scritto con le virgolette parachiappe. Le sue gaffe, le bizze, le goffaggini sarebbero state parte di un suo acuto marchingegno di intelligente ingegneria sociale, e chi nel passato tutto a caso avesse avuto qualcosa da ridire nei suoi confronti sarebbe un entomologo dell'ovvio. In ragione di ciò Grasso chiede a gran voce che Umberto Eco, che nel 1961 sulle pagine del Verri pubblica quella fenomenologia di mai buongiorno che poi insieme a qualche altro scherzo letterario e anche qualche saggio storicamente significativo come l'Elogio del Franti raccoglierà nel Diario Minimo, ecco quella fenomenologia di mai buongiorno da cui ho tratto per l'appunto quel bozzetto iniziale, ecco, chiede che Umberto Eco ritiri quanto ha scritto e che in pratica ne firmi una riabilitazione. La sera del 1° giugno, nei giardini del Quirinale, il Presidente della Repubblica, Ciampi, festeggia il cosiddetto compleanno della Repubblica, concerto e cocktail per 2000 invitati che il giornale su cui scrive Aldo Grasso definisce rigorosamente selezionati. La serata, che non soltanto fotograferebbe i poteri in corso, ma che segnalerebbe altresì chi sale e chi scende nella teleaffettività degli italiani, costituirebbe un trionfo per Mike Bongiorno, che piange di commozione per le belle parole che Ciampi, che è un lettore attento di Grasso, evidentemente sulle stesse posizioni ermeneutiche, trova per lui. Non solo riferiscono le cronache che, più tardi, Mike Bongiorno trovi la forza di rivelare cosa gli ha detto Franca Ciampi. Che gli ha detto? Allora, mi ha detto che sono più bello dal vivo. Ora, mi è capitato più volte di sentirmi come un personaggio di quel vecchio film di Don Siegel, non so, qualcuno di voi lo ricorderà, L'invasione degli ultracorpi, e scoprire all'improvviso che anche il mio interlocutore è uno di loro. Qui è chiaro, è l'illuminante frase di Franca Ciampi a farcelo comprendere. Qui è chiaro che in quei giardini del Quirinale tutti, proprio tutti, siano dei loro. Ma quel che dice Franca Ciampi verrà pure da qualche parte. Ecco, voglio dire che incontrare Mike Bongiorno e ritenere opportuno e sensato dirgli che è più bello dal vivo è una scelta che proviene da una matrice culturale fin troppo chiara. Quel pensiero, in altre parole, quel pensiero sa di Mike Bongiorno stesso, dall'inizio alla fine, dalla prima all'ultima sillaba. Anzi, giurerei che è fin suo ideologicamente e suo storicamente, anni or sono, allorché ha cominciato a produrre i signori e le signore Ciampi, Mike Bongiorno avrà pur detto a qualcuno, ma sa che lei è più bello dal vivo. È il tipico campione della cultura bongiornica e soprattutto è il tipico segno delle scelte politiche che hanno condotto a questa cultura. Non ho mai apprezzato granché la fenomenologia di Umberto Eco, di Mike Bongiorno di Umberto Eco, per difetto di critica nei confronti del personaggio, non per eccesso. Come buona parte degli scritti di Eco, la ritengo più l'espressione giocosa di una borghesia intellettuale che il risultato di una critica radicale del sistema culturale e della sua filosofia. Chi indugia su categorie come quella della mediocrità, o chi crede che la comunicazione televisiva possa essere analizzata e risolta in termini di rapporti gerarchici fra chi sta da una parte e chi dall'altra parte del video, non chiedendosi né le radici politiche di ciò che lui categorizza come mediocrità, né perché qualcuno sta da una parte e qualcun altro sta dall'altra parte del video, in fin dei conti sta semplicemente ribadendo altre gerarchie costituitesi secondo il proprio punto di vista. Spero sinceramente che Eco non accolga l'invito di Aldo Grasso e lasci Mike Bongiorno in quel modestissimo inferno in cui l'aveva piazzato a suo tempo. O meglio, se Eco volesse dimostrare di essere cresciuto, e dal 1961 ad oggi ne avrebbe fin il dovere, e volesse dimostrare di non far parte di questa miserevole servitù di regime, potrebbe riscrivere la fenomenologia di Mike Bongiorno e rincarare la dose, con un appendice dal titolo Mike Bongiorno come ontologia e come costruzione sociale, due linee a confronto. sono anzi